dico, amica mia, amore, radio, nostalgia. Io non ti penso quasi mai, ti ho dato in pasto agli avvoltoi, all'olocausto e ai marinai. Amore atomico, Enola Gay. Orrore amico, errore mio, che non ti ho detto neanche addio, che non ti ho detto come mai una domenica buttai nel cesso la fotografia in cui ci stringevamo forte, colpa mia. Se quest'anno ti hanno visto, mi dicono, vomitare gli occhi e l'anima a un concerto rock, abbracciata ad una testa di cazzo, un regista, un coreografo, che ne so, un lavoro come un altro, una droga per illuderci e credere di essere uomini. Dicevi, I wanna be a mandolin, il tempo di un LP, il lato A, il lato B. Non siamo mica immortali, bruciamo ed è meglio così. A mandolin, soltanto per un LP, il lato A, il lato B. Che niente dura per sempre, nemmeno la musica. Perduto amore, anima mia, amore non una sinfonia. Vorrei sapere come stai, se come scrivi è tutto ok, e se davvero ora lo sai che sono diventato un mostro, colpa tua. Se mi dividerò nel buio di un vicolo, all'uscita posteriore di un concerto rock, vomitare una troietta qualunque, una tizia, una pittrice, ma che ne so. Il tuo pessimismo da quattro soldi chiaramente aveva fatto proseliti. Dicevi, I wanna be a mandolin, il tempo di un LP, il lato A, il lato B. Che niente dura per sempre, finisce ed è meglio così. A mandolin, soltanto per un LP, il lato A, il lato B. Che niente dura per sempre, figurati.